Radio 24 Reportage. Molenbeek, un quartiere sotto accusa, di Sergio Nava. Buongiorno da Molenbeek, uno dei quartieri più noti di Bruxelles. La cronaca ne ha parlato molto in questi mesi. In questo reportage vi portiamo nel cuore di Molenbeek e lo facciamo con Annalisa Gadaledda, italiana, che a Molenbeek è assessore per l'istruzione della comunità fiamminga. Siamo proprio nella piazza comunale. Ci può raccontare innanzitutto com'è strutturato questo municipio? Allora, qui ci troviamo sulla Place Communale, tra l'altro una piazza che è stata rifatta non molti anni fa grazie anche ai dei mezzi che ci sono venuti dall'Europa. Molenbeek è un comune che si trova lungo il canale, veniva chiamato Little Manchester, e adesso ci avviamo verso il commissariato di polizia, che in seguito a livello 4, poi livello 3, rimane comunque molto molto sorvegliato, l'accesso al pubblico è anche reso più difficile. È un piccolo quartiere Molenbeek alla fine? Molenbeek per numero di abitanti c'ha 100.000 abitanti, il centro storico di Molenbeek effettivamente è un piccolo quartiere dove però vive tanta gente, quindi densamente, molto molto densamente popolato. Quali sono i punti nevralgici o dove si raggruppa la comunità del quartiere? Non c'è molto la tradizione di raggrupparsi sullo spazio pubblico come abbiamo in Italia, anche perché il tempo magari non è così clemente come nei paesi del sud Europa, però la piazza qui, la piazza comunale, sicuramente è un luogo centrale dove si tiene il mercato anche ogni settimana. Davanti alla chiesa qui, la chiesa di Saint Jean-Baptiste, Saint Giovanni, è una chiesa in Art Deco, uno dei pochi esempi di chiesa in Art Deco che ci sono in Belgio. La chiesa la vediamo proprio davanti, di fianco il commissariato di polizia estremamente sorvegliato. Che effetto le fa passare davanti a un commissariato che sembra in stato di guerra ormai da mesi? Le fa un effetto effettivamente strano, vediamo un po' il segno dei tempi, vuol dire che ci siamo in un periodo della vita di questo paese estremamente particolare, che domanda penso anche molta calma, serenità, ma anche delle misure che si impongono come sempre nelle situazioni di crisi. Molenbeek, 6 km quadrati per 100.000 abitanti. Molenbeek, il piccolo califfato nel cuore di Bruxelles. Molenbeek, il nuovo ghetto d'Europa. Di questo municipio, a soli 10 minuti a piedi da Piazza della Borsa, centro cittadino di Bruxelles, si è detto e scritto di tutto negli ultimi mesi, da quando è cioè emerso come la base operativa della cellula che ha colpito Parigi a fine 2015. I riflettori sono tornati ad accendersi quando, il 18 marzo, il super ricercato Salah Abdeslam è stato catturato proprio nel cuore del quartiere, lungo la Rue de Quatre-Vingts, uno degli assi portanti che lo tagliano. È quasi superfluo aggiungere che questo è anche il quartiere di Salah. Il suo ultimo indirizzo conosciuto prima di darsi alla macchia era la Place Communale. Abbiamo trascorso un'intera mattina a Molenbeek per potervi raccontare questo quartiere. Riprendiamo dunque con l'intervista all'assessore Annalisa Gadaledda. L'immigrazione turca e marocchina ha conosciuto uno sviluppo importante 50 anni fa, quando il Belgio ha firmato un contratto con la Turchia e col Marocco per avere dei lavoratori che venissero a lavorare qui. Allora, la prima generazione in generale sono generazioni che sono venute qui, i marocchini, perché è la più grande comunità qui a Molenbeek, sono venuti qui con l'idea di avere un futuro migliore, ma probabilmente di tornarsene il più presto possibile nel paese di origine. Erano qui anche con l'idea: non dobbiamo farci notare, siamo ospiti in questo paese, ci dobbiamo comportare da ospiti. La seconda generazione, che poi sono rimasti qui, in fondo i bambini sono nati qui, sono andati a scuola qui, dicevano: non siamo ospiti, siamo cittadini di questo paese, siamo nati qui, ma sono stati in molti casi confrontati con delle politiche non adatte anche nelle scuole per l'apprendimento della lingua, per l'apprendimento della cultura, eccetera, e con delle forme di razzismo e di discriminazione veramente gravi. La seconda generazione è quella che sicuramente ha sofferto di più. Io conosco casi di persone che mi dicevano, quando mi punivano in classe mi dovevo mettere a quattro zampe, e mi dicevano chiaramente: questa è la posizione in cui i musulmani devono stare nella nostra società. Quindi hanno lasciato delle tracce sicuramente profonde. Ed era la prima generazione che si proiettava qui in questo paese con delle risposte inadeguate, e poi ovviamente questo si riflette sulla terza generazione, e che è la generazione che oggi ha più grosse difficoltà a trovare il suo posto qui in Belgio, che non si sente far parte di niente, non si sente far parte del Belgio, non si sente far parte del Marocco, perché è il paese dove vanno solo in vacanza, non è il paese di cui si sentono far parte, e che è sicuramente in alcuni casi a rischio di pensieri piuttosto radicali, perché la ricerca di identità vanno a finire in certi network di pensieri radicali e interpretazioni radicali e tutto sommato non corrette dell'Islam. C'è anche un errore di fondo, forse, quello di concentrare comunità molto omogenee, però in qualche modo aliene alla cultura del posto, in pochi chilometri quadrati, come è il caso di Molenbeek, perché alla fine si creano dei ghetti. Il fenomeno che noi abbiamo qui a Molenbeek è un quartiere abbastanza grande, c'è una concentrazione innanzitutto semplicemente di numero di abitanti, abbiamo in alcuni quartieri concentrazioni più alte che a New York per numero di abitanti, e una certa omogeneità sociale innanzitutto, ma anche culturale. Allora, se lei vive in questi quartieri, se lei come bambino frequenta una scuola in questi quartieri e non ha mai la possibilità di incontrare l'altro, la diversità, che sia sotto forma sociale, che sia sotto forma culturale, che sia sotto forma religiosa, questa grande omogeneità crea effettivamente il fenomeno di ghetto, che poi è difficile a un certo punto romperlo nella vita e nel percorso delle persone, fare in modo che ci sia questa grande apertura di cui noi abbiamo bisogno nelle società complesse in cui viviamo oggi. Il problema della radicalizzazione comunque c'è stato, lo si vede, insomma, molti dei terroristi arrivavano da qui, e allora il problema si pone anche la risposta. Partiamo dalla vostra risposta come amministrazione. La radicalizzazione effettivamente è un fenomeno molto complesso. Quello che noi facciamo nelle scuole, lavoriamo molto con i bambini, lo facciamo già da diversi anni, e fondamentale per noi in questo processo educativo è giustamente la discussione dell'apertura mentale, fare in modo che i bambini vengano accompagnati nella loro formazione di identità via un incontro possibile con realtà diverse, che siano sociali, culturali, ma che siano anche di scoperta di sé e dei propri talenti. Abbiamo anche fatto in modo di sensibilizzare gli insegnanti a cos'è il radicalismo, quali ne sono le origini, ma anche cos'è l'Islam nella sua complessità, perché conosciamo oggigiorno una forma molto povera e impoverita dell'Islam. Abbiamo invitato Khalid Benaout, che è un imam di Gand, un giovane imam molto bravo, che è venuto a parlare a 150 insegnanti. Poi c'è la risposta della stessa comunità musulmana, chiaramente è una risposta secondo lei soddisfacente? Io penso che la grande difficoltà sia che oggigiorno non ci sia una vera società civile musulmana organizzata, nel senso di società civile organizzata come la possiamo avere noi, però ci sono molti musulmani che sono impegnati in tante organizzazioni e che si mobilizzano nel lavoro di tutti i giorni per favorire giustamente questo incontro e anche per mostrare, se vuole, un'immagine positiva delle religioni che loro vivono in maniera positiva nella nostra società. Coloro che hanno una responsabilità anche proprio a livello di indottrinamento stanno collaborando, stanno cercando di combattere il salafismo, poi alla fine che ha contagiato in negativo la società. Ma guardi, i primi che hanno, da cui ho avuto questa informazione, ma anche questa condanna forte dell'influenza del pensiero salafista tra i giovani e la comunità musulmana in generale qui a Bruxelles, sono venuti giustamente dall'esecutivo dei musulmani, da insegnanti di religione islamica, da imam come Khalid Benaout che abbiamo invitato qui a Molenbeek. Quindi è chiaro che loro stessi, di fronte a tutto la situazione che si sta creando, sono stati i primi a dire fate attenzione, che queste influenze ormai sono da anni che è attiva, e si sono in un certo senso anche sentiti non sostenuti dallo Stato nel loro sforzo di far mostrare un'altra immagine dell'Islam e di sostenere un'altra immagine dell'Islam. È chiara quella parte di cancro di persone che giovani radicalizzati piuttosto che imam che indottrinano verso tendenze radicali, si sta cercando di isolarli, perché spesso si accusa anche la gente di Molenbeek di omertà. È così o no? Casi che noi conosciamo di giovani che sono partiti in Siria e anche probabilmente dei terroristi di cui si parla oggi, l'indottrinamento non si è fatto nelle moschee, l'indottrinamento si è fatto via dei reclutatori formati a questo tipo di, purtroppo formati a formare dei potenziali terroristi, delle persone che partano in Siria, e poi anche l'uso dei media sociali, di internet. Quindi l'imam in questo fino ad ora, almeno le informazioni che abbiamo noi, non hanno giocato un ruolo. Rispetto all'omertà, allora io non nego che Salab al-Salam o altri abbiano potuto beneficiare dell'appoggio di network, spesso criminali legati, che poi criminali legati a fatti terroristici, e sicuramente di persone che li hanno nascosti, che non hanno detto niente, e sono queste sacche di omertà su cui noi sicuramente a livello locale ci dobbiamo occupare, che siano delle risposte di tipo repressivo, che siano delle risposte di accompagnamento, che siano delle misure più a lungo termine di ritorno alla norma, alla legge, alla democrazia. Sono un tipo di risposte che dovremo mettere in campo il più presto possibile. Passeggiando un venerdì mattina di pioggia per i 6 km quadrati di Molenbeek, dalla piazza comunale fino a Rue des Etangs Noirs, passando per una delle arterie principali, la Chaussée de Gand, prima di risbucare nella Rue des Quatre Vents, teatro a metà marzo dello spettacolare arresto di Abdeslam, notiamo quanto sia un quartiere realmente popolare. Lo noti dalle case basse, dall'aspetto dimesso di alcuni edifici e anche di alcuni cortili interni. Tuttavia, Molenbeek mantiene un aspetto dignitoso. E non ci sono, come vuole il cliché, solo musulmani per le strade, ma anche tanti belgi o stranieri stranieri di altre nazionalità europee. Ovviamente risaltano gli innumerevoli negozi etnici, ma a stupire è soprattutto il silenzio di queste strade. La gente parla poco, scivola via silenziosa. Un paio di volte, prima una donna e poi un uomo, vedendo il mio microfono, mi apostrofano, invitandomi ad andarmene e a lasciarli in pace. Qui sono stanchi, i nervi sono tesi. Fino a quando arrivo di fronte alla casa dove Salah Abdeslam è stato arrestato, qui, sia nel negozio di verdure e sia nella panetteria gestiti da immigrati nordafricani, il leitmotiv è lo stesso. Abbiamo dimenticato tutto, siamo persone che dimenticano in fretta. Noi vogliamo dimenticare certi episodi e voi fate di tutto per farceli ricordare, ci dicono quelli del negozio di verdure. Siamo stanchi di questa notizia di Salah, preferiamo restare tranquilli, aggiungono in panetteria. Dobbiamo così andare nella farmacia immortalata in tutte le immagini dell'arresto di Abdeslam, proprio perché i suoi muri confinano con la casa dove si rifugiava il super ricercato, per trovare qualcuno finalmente disposto a parlare. Cape Malula è di origine congolese e parla molto volentieri. Sto ancora digerendo quello che ho visto il 18 marzo. Ero qui con dei clienti, all'improvviso mi urlano di andare nel retrobottega. Ho vissuto tutto in diretta. Sono rimasta qui dalle 16 per 5 ore e mezza. Ha avuto dei sospetti sugli occupanti della casa di fianco alla sua farmacia, le chiediamo. Beh, c'erano dei lavori per strada in quei giorni, la casa sembrava vuota, era tutto calmo, non c'era nessuno. Anzi, ripensandoci, mi incuriosiscono quei lavori sulla strada nei giorni precedenti l'arresto. Circolavano persone mai viste in zona. Altra cosa strana, dopo gli attentati di Parigi, la polizia era venuta a perquisire proprio questa casa, se lo ricordano tutti, qui lo chieda. E 3 giorni prima dell'arresto, sempre la polizia aveva controllato una vettura. Questa casa, secondo me, era già considerata sospetta. La polizia è venuta chez eux. Le quartier, tout le monde, les gens l'ont dit. Donc après l'attentat, on est venu dans cette maison. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.